Storielle. Storiacce. Di Roberta Giordano. L'ospite di oggi potrei definirlo un conoscitore di cuori, se così si può dire. E lo scopriremo man mano, quando ci racconterà un po' la sua storia, i suoi gusti, le sue attività. E molti di voi naturalmente lo riconosceranno e riconosceranno nelle sue parole questa capacità di sondare, appunto. E non è un cardiologo, è proprio uno che riesce ad andare in fondo ai cuori delle persone. Però, prima di tutto, come sempre, la prova dei tre aggettivi, ospite. Come ti definiresti sinteticamente? Diciamo magrissimo, cappellone e autoironico, perché ovviamente serve per cancellare gli altri due che sono falsi. Sì, perché gli altri erano un po' fuorvianti, devo dire. Nel senso che capelli so che non ne hai moltissimi, anche se sei un bell'uomo, insomma, Massimo Gramellini, però non ne ho magrissimo. Moltissimi, ma li tengo molto a cura, li conto tutte le sere, insomma. Massimo Gramellini è il vice direttore del quotidiano La Stampa, ma soprattutto un noto giornalista. La sua firma tra le più brillanti del quotidiano di Torino la si conosce da tanto tempo, soprattutto per il tuo buongiorno, no? Queste 22 righe, questa finestra presente quotidianamente dal 99, no? Se non sbaglio, Massimo. Ottobre saranno 10 anni. Sono 10 anni che festeggi, che è un condensato in 22 righe di un commento, sempre con la tua ironia, col tuo modo di vedere le cose della vita, della politica, del costume, sulla prima pagina, dicevo, della Stampa, in queste 22 righe. Massimo, tu sei di Torino. Sì. Di Torino, però hai vagato molto nel corso della tua vita. Romagnolo, il mio cognome, come tutti i cognomi che finiscono per Lini, denuncia, diciamo, le origini, nel senso che la famiglia di mio padre e i miei nonni erano di Forlì. Quindi, insomma, e ci tengo molto a questa mia metà romagnola, anche perché mi ci sento molto, certe volte anche un po' più di metà me la sento dentro. E che cos'è? Da cosa viene fuori? Come si riconosce? Insomma, viene fuori intanto dal fatto che io mi arrabbio abbastanza poco, ma quando mi arrabbio sono molto sanguigno. E poi la passionalità, sicuramente, cioè che non è, diciamo, una delle principali caratteristiche del piemontese, no, mentre lo è sicuramente del romagnolo, ecco. E allora probabilmente è questa tua romagnolità, come dicevi tu, che ti ha aiutato negli anni a gestire così bene questa rubrica, fra le altre cose che fai, che hai fatto, no? Questa posta del cuore sullo Specchio, il magazine, il settimanale della Stampa. Adesso ce l'hai fisso invece la domenica, proprio sul quotidiano, la posta del cuore, no? Quindi quello no, ti dirò che invece in realtà per fare la posta del cuore serve di più il distacco dalle emozioni, nel senso che i lettori che scrivono la posta del cuore danno giustamente una grande importanza alle emozioni, fanno dipendere le loro scelte principalmente dalle emozioni, che come tu sai hanno la caratteristica di essere superficiali e piuttosto rapide nello svolgimento, intense ma brevi. Io invece nelle risposte dovrei cercare, almeno cerco, di propagandare un'altra cosa, che sono i sentimenti, che sono molto diversi dalle emozioni. I sentimenti sono qualcosa di profondo e di molto faticoso e di non rapido, cioè hanno bisogno, per potersi manifestare, di un periodo di tempo piuttosto lungo. E oggi, o almeno fino ad oggi, sono stati assai poco di moda. Quindi quando rispondo io cerco di mettermi addosso questo abito sentimentale, più che non quello emotivo. Quello emotivo è quello che ti porterebbe a dare delle risposte molto di pancia, rapidissime, no? Lascialo, mollalo, oppure buttati a capofitto. Invece il sentimento ti deve portare a riflettere un po' di più prima di compiere dei passi decisivi, perché poi l'amore è sicuramente una macchina di precisione molto molto particolare, che può subire anche le più incredibili botte e rimanere in piedi, ma certe volte basta toccare un colpo di vento, punti, sì. E vai in mille pezzi e non la rimetti più insieme. Ma poi ci ritorniamo insieme a Massimo Gramellini, anche perché l'ultimo libro tuo è Cuori allo Specchio, dove hai raccolto un sacco di lettere d'amore. Però dopo invece noi ritorniamo di nuovo un passo indietro, parlavamo della tua origine, insomma, da parte di papà romagnoli. Tu sei nato comunque a Torino nel 1960, hai perso la mamma piuttosto precocemente, no? Sì, a 9 anni. Però tu hai avuto un grande amore, che è stato tuo padre. Ma ho avuto un rapporto molto difficile con mio padre, io poi ero figlio unico, e mio padre era un uomo molto poco mammoso, ecco, cioè non era uno di quegli uomini femminili caldi. Noi eravamo la classica famiglia italiana di quegli anni, cioè padre appunto paposo, duro, che usciva la severo, mattina la sera, severo, e mamma invece molto calda, molto protettiva. E io mi sono ritrovato da un giorno all'altro senza questa figura, e tra l'altro per una serie di giochi del destino ho perso nel giro di 2 anni tutte le figure di riferimento femminili della mia vita, cioè le mie due nonne e mia mamma. mamma, e quindi mi sono trovato improvvisamente circondato da maschi, perché mio papà non aveva fratelli, ma mia mamma ne aveva quattro, tutti maschi. Quindi sono rimasto, diciamo, in una realtà in cui i miei riferimenti erano un padre maschio, molto maschio, e quattro fratelli di mia mamma, tra i quali il mio preferito era invece quello più femminile, in qualche modo, nel senso quello con il carattere un po' più materno, tra virgolette, e che per qualche verso è stato un po' la mia vera mamma, per certi versi. E quindi questo, il fatto che appunto tu abbia adottato, diciamo così, uno degli zii come possibile mamma, ma che il resto intorno a te era fatto di figure maschili, che cosa ha comportato secondo te nella tua formazione, nella tua crescita? Ma guarda, io credo che di fronte a una cosa del genere poi si reagisce in base alla propria personalità. La cosa importante, così dicono gli psicologi, è che la personalità si forma nei primi 2 o 3 anni di vita. Quello è il nocciolo che poi non cambia più. L'espressione della personalità invece è sicuramente molto condizionata dagli sviluppi della vita. Io sicuramente ho reagito a questo dolore e a questa improvvisa mancanza di calore, ho reagito con la fantasia. Mi sono sicuramente creato fin da bambino un mondo mio parallelo, che poi mi sono ritrovato quando ho cominciato a fare giornalista, nel senso che avevo abitudini fin da molto piccolo a scrivere molto, a inventarmi delle storie, nel senso di imparare però molto a far vagare la testa per evadere da una realtà che certamente non era una realtà in cui mi trovavo a mio agio, perché qualunque persona abbia avuto un trauma del genere da bambino lo sa, l'effetto immediato è la diversità, cioè ti chiedi perché a me, certo, cioè, perché eravamo 30 compagni di classe, io ero l'unico a cui era capitato. Ma fra l'altro, sai, erano ancora anni, Roberta, in cui non c'erano ancora molti divorzi, per cui adesso probabilmente in una classe l'orfano e con tutti separati sono quasi la media. E allora era diverso, io uscivo da scuola all'1, quinta elementare, e tutti i miei compagni avevano la mamma che li veniva a prendere e io no, e questa cosa un po' ti ha segnato, faceva sentire un po' diverso. Però poi si creano delle difese, degli anticorpi e si vide. Storielle. Storiacce. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, Roberta Giordano sempre con voi qui a Storielle, e in mia compagnia come ospite c'è oggi Massimo Gramellini, dicevo, noto giornalista, vice direttore del quotidiano La Stampa, ha scritto diversi libri, poi ne parleremo, l'ultimo è Cuori allo specchio, e soprattutto poi noto anche in modo particolare al grande pubblico per questo Buongiorno, questa finestra, questo corsivo di 22 righe in cui condensa quotidianamente da anni, dal 1999, delle riflessioni ironiche, incisive, molto argute su questioni di attualità, di politica, di costume. Massimo, quindi dicevamo, questa infanzia insomma sicuramente non facile, ma è vero che sei cresciuto in un appartamento, anche se qualcuno mi dice che a Torino si dice alloggio, proprio affacciato sullo stadio comunale? Sì, sì, è vero, intanto è vero che si dice alloggio. Si dice alloggio, è rimasta questa della natura militare della città. E poi è vero che sono cresciuto davanti allo stadio comunale, adesso si chiama stadio olimpico, allora si chiamava stadio comunale, e proprio in faccia, praticamente non riuscivo a guardare dentro il campo, però quando i portieri facevano i rinvii alti da casa vedevo per un attimo il pallone nell'aria e poi ricadeva giù, però insomma era lì, proprio davanti a me. Ma può darsi che sia proprio per questo che tu sei un tifoso fervente del Toro, no? Realtà io sono nato, penso al destino, casa mia era in linea d'aria, era esattamente davanti alla curva della Juve, quindi ero proprio nato. Eppure non ti ha condizionato questa cosa, tu sei rimasto... No, mi ha condizionato all'incontrario. Al contrario. Ma lì sai, sono quelle situazioni dove da bambino ovviamente segui il papà, il mio papà era tifosissimo del grande Torino e quindi mi ha portato allo stadio a vedere il Torino, che non era più grande ma era ancora molto forte, e insomma poi anche lì è legato a un episodio molto emotivo, perché avevo 6 anni quando morì Gigi Meroni, che era un grandissimo campione di calcio del Toro, che morì sotto una macchina, e la domenica dopo c'era il derby che il Torino vinse 4-0 e c'era tutto lo stadio che piangeva gridando il nome di questo giocatore che era morto, e io quel giorno mi innamorai del Toro, perché soltanto un'emozione così forte, un bambino di 6 anni che riesce a, per la prima volta entra in contatto con la morte in una giornata però di gioia, perché la squadra aveva vinto, insomma è stata un'emozione molto forte, e da allora il Toro è rimasto dentro di me fedele per la vita come una malattia. Poi come è proseguita poi la tua vita con gli studi, con degli incontri sì, particolari ho fatto che hai fatto? Giurisprudenza, però avevo il grande sogno di fare giornalista. Quindi da subito, fin da bambino terrorizzavo tutti i parenti dicendo da grande farò il giornalista e lo scrittore e scriverò un libro dove racconterò tutte le cose che mi sono successe e parlerò di tutti voi. Ed erano tutti terrorizzati all'idea di essere immortalati. Messi in piazza. Senti, l'idea quindi ce l'avevi chiara da subito. E poi come si è concretizzato questo percorso? Ma, guarda, in realtà poi è strana perché tu lanci un grande desiderio nell'universo, poi magari si realizza quando tu non ci pensi più. Io avevo ormai 24 anni, quasi alla fine dell'università, e in realtà non è che volessi fare l'avvocato, che non mi entusiasmava. Avevo il sogno in quel momento di fare il pubblicitario. Pensate, era l'inizio degli anni Ottanta, sognavo di diventare un copywriter. Comunque la vena creativa, quindi c'era in ogni caso. E invece poi, proprio in quel momento, ho mandato tra l'altro un test, si facevano i test, a un'agenzia di pubblicità, e invece di chiamarmi loro mi ha chiamato un giornale sportivo di Torino per chiedermi di collaborare, perché avevano un collaboratore che partiva militare. Ah, e così per caso ho cominciato questa attività. Poi nel giro di 2 anni ho avuto la fortuna di, lo sport allora era un settore che ancora aveva le porte abbastanza aperte, tieni conto che io non conoscevo nessuno, non avevo parenti, amicizie, conoscenze nel mondo del giornalismo, quindi non avevo raccomandazioni, ecco. Però nel giro di 2 anni ho avuto la possibilità di andare a lavorare sempre per lo sport a Milano al giorno, ho fatto per un anno e mezzo lo sport a Milano al giorno, anche lì continuavo a voler fare il pubblicitario, avevo un colloquio di lavoro con un'importante agenzia di pubblicità, tipo metti il martedì mattina, e il lunedì sera mi chiamarono dalla stampa per offrirmi di fare il redattore della stampa da Roma. E quella notte praticamente ho dovuto prendere una decisione. Della vita. Io dico sempre che le decisioni, questo è un suggerimento che do sempre ai lettori, sentiamo, le decisioni della vita importanti, bisogna, non conta l'oggetto della scelta, conta quello che ti spinge a prenderla, il coraggio o la paura. Le scelte di coraggio sono sempre giuste, anche se all'inizio sono spesso le più difficili, qualunque siano. Cioè, non possono rischiare di essere un po' imprudenti le scelte di coraggio, a volte. Ma, dico. Guarda, io cito sempre il mio esempio personale dell'università, io volevo fare giornalista, mestieri creativi, ed ero un appassionato poi anche di letteratura e anche di politica, quindi le mie scelte del cuore sarebbero state lettere o scienze politiche. Mio papà voleva invece che io facessi economia e commercio perché mi sognava manager, meglio così diciamo, perché sarei stato un pessimo manager. Il compromesso familiare fu fai giurisprudenza, e così poi, almeno se non riesci a fare quello che vuoi puoi sempre fare l'avvocato, quindi una scelta di paura, come dire, facciamo quello perché nel dubbio che non vada bene ci copriamo. Puoi spenderti. Le spalle. Risultato, un'università noiosissima dove io ho dato esami in cui ho preso anche tutti i voti altissimi, ma non è quello il problema, è che studiavo senza passione per ciò che facevo. E questo è un errore, invece le scelte di coraggio sono quelle anche spesso molto, l'imprudenza è un'altra cosa, cioè l'imprudenza non è coraggio, il coraggio è qualcosa che arriva dopo una riflessione, una meditazione profonda, l'imprudenza invece sono le scelte basate appunto, come dicevamo prima, sulle emozioni, che quindi ti portano a fare delle scelte imprudenti, cioè bisogna seguire quello che ti dice il cuore, quando quello che ti dice il cuore è qualcosa di continuo, cioè non è un'emozione momentanea ma è un qualcosa che dura nel tempo, ecco, non mai fidarsi dei capricci o delle intuizioni che durano un attimo, quello che conta sono le cose che ti restano appiccicate addosso per tanti anni, allora quelle sono vere. E quella era vera questa tua passione, questa tua vocazione per il giornalismo, quindi sono tanti anni che sei alla stampa poi alla fine da quando e ti hanno chiamato. Io sono arrivato alla stampa il 1 dicembre del 1988, quindi ho appena festeggiato i 20 anni, mi hanno dato anche una medaglietta per i 20 anni, comincio a sentirmi vecchissimo e quindi sono entrato nella categoria seniores ormai. Senti, tu sei un grande osservatore, diciamo, soprattutto attraverso il Buongiorno, il tuo corsivo del costume, no, italiano. Se dovessi dare in questo momento così farmi un po' un ritratto sintetico dell'Italia che vedi oggi tu, Massimo. Ma sai, l'Italia di questi ultimi mesi non è già più quella di prima, cioè noi siamo reduci, anzi siamo appena entrati dentro un cambiamento epocale, questa crisi economica è una crisi anche di valori, è una crisi molto profonda da cui usciremo, io sono sicuro che usciremo migliori, ma usciremo sicuramente più poveri. alla fine di tutto il gioco ci sarà stato uno spostamento di ricchezza ai nostri danni, intendo dire come Italia e come Europa in generale. Bisognerà creare aziende nuove, che facciano cose nuove, bisognerà creare nuovi posti di lavoro in altri mondi che ancora noi oggi non immaginiamo. Quando Obama dice creeremo posti di lavoro nelle energie alternative, molti gli ridono dietro, ma si sa che si ride sempre dietro di fronte alle novità, il cinismo e la fa da padrona. Però Nemo profeta in patria, è come si dice. Ma io credo, guardi, io sono convinto che siamo a un passaggio epocale. È un cambio proprio di civiltà in qualche modo. È finito il secolo del petrolio, il secolo dell'elettricità, comincia un secolo nuovo, come ci fu il secolo del vapore, poi c'è stato appunto il secolo dominato dal petrolio, ora c'è un altro secolo che comincia, un'altra fase della storia umana, dove tutto cambierà. Più rapidamente ci si abitua a questa idea, la si accetta senza difendere in maniera conservatrice cose che non si possono più conservare, e più in fretta ne usciremo. Massimo, invece, ritornando, quindi questo più un'analisi socio-economica, socio-politica, eccetera, ritornando invece a una tua altra vocazione, sempre di giornalista ma un po' più intimistica, no? Dicevamo la tua rubrica sullo specchio, Cuore allo specchio, e poi questo ultimo libro che si intitola per l'appunto Cuore allo specchio, che dove hai messo insieme centinaia di lettere che ti sono arrivate, perché tu, 100 precise, perché tu hai scoperto negli anni proprio questa passione di nel conoscere le persone attraverso i loro sentimenti, attraverso anche dei fili conduttori che riguardano un po' tutti gli esseri umani, e poi a livello individuale, no? Individuale invece. Ma, guarda, io ti dico, la riflessione da cui sono partito è stata questa. All'inizio è stato un gioco, chiaramente. Poi mi sono reso conto che con la fine delle ideologie, oggi davvero è un'era dell'individuo, ma non lo dico in termini però negativi, cioè non deve essere per forza l'era dell'individuo che si chiude, certo, in se per forza in senso deteriore. Questo è il rischio. Però io penso che è dall'individuo che dobbiamo ripartire. E noi siamo paradossalmente molto egoisti, ma ci vogliamo molto poco bene. Mi sembra una contraddizione in termini, invece è esattamente la condizione normale dell'uomo occidentale di questa epoca. Molto egoista, molto chiuso su se stesso, molto concentrato sul proprio ombelico, ma allo stesso tempo profondamente depresso perché si ama poco. L'esplosione aberrante e mai abbastanza denunciata delle droghe avvenute negli ultimi anni, anche in concomitanza con il calo del costo di alcune droghe come la cocaina, ha comportato davvero è evidente la dimostrazione del disprezzo che le persone hanno per se stesse, il bisogno di ricorrere a aiuti esterni perché non ce la fanno, perché non sono più in grado di guardarsi dentro, di capirsi e di volersi bene, e vanno a cercare altrove, anche nell'amore, studiando, la soluzione dei problemi che possono avere solo dentro di sé. Dico no, tu ti devi voler bene nonostante gli altri. Noi abbiamo dato nella nostra società, complice anche la pubblicità che ci ha molto marciato, un'enfasi esasperata al bisogno di emozionarsi. Devo provare un'emozione, viene in mente la canzone di Battisti, no? Appunto, guidare a fari spenti nella notte, cioè provare delle emozioni estreme, e ogni volta sempre più estreme, perché ovviamente ogni emozione deve superare l'altra, poi sennò ti annoia. La tua emozione, appunto, perché l'hai già vissuta. E tutto questo, alla fine, cosa ti porta? Essere infelice, triste e incapace di invece di coltivare l'unica cosa che conta, che sono i sentimenti, che poi con una parola abusata diciamo i valori, ma i sentimenti. Massimo, tu che sai parlare così bene d'amore, tu l'amore ce l'hai, tu sei al tuo secondo matrimonio, se non sbaglio. Io sono ormai sì, da parecchi anni, penso che sia quello definitivo, ma non, non c'è due senza tre, ma in questo caso penso mai di poterlo dire con una certa serenità, insomma. Bene. Anche perché mia moglie ha delle qualità che è difficile, almeno per quanto veda io nella mia esperienza, mi sarebbe difficile trovare un'altra persona. E hai ragione, è difficilissimo trovare le persone giuste, quindi è una grande fortuna e ti auguro ovviamente di andare avanti così per sempre. Allora, visto che qui questa che senti è la lampada di Aladino, allora non chiederai un desiderio legato all'amore probabilmente, o quello che vuoi, insomma, che cosa chiederesti ancora, Massimo Gramellini, tu, alla tua vita? Sembrerebbe un po' egoistico, avessi la lampada a disposizione per un desiderio solo, vorrei che fosse qualcosa di collettivo, vorrei davvero che questa crisi ci tirasse fuori il meglio di noi, può tirare fuori il meglio o può tirare fuori il peggio, ovviamente. Di solito gli italiani nei momenti di difficoltà esprimono la parte solidale della loro natura che li rende unici per certi versi. Io mi auguro davvero che, ecco, il mio desiderio è più coraggio, meno paura, non avere paura, ecco. non è una cosa da poco. Una situazione impegnativa detta da papi e da personalità ben più importanti di me. Però ecco, sarebbe bello che tutti, svegliandosi la mattina, ce lo ripetessimo come un mantra proprio. Non aver paura. Ci proveremo. Grazie allora Massimo Gramellini. Ciao Massimo. Ciao, grazie a te. We'll be right back.